Friuli nel mondo. 121esima trasmissione dedicata agli emigrati. 4 novembre 1918. Il 3 novembre 1918, noi del terzo squadrone cavalleggeri Savoia entrammo in Udine. Erano le 1:30 del pomeriggio ed eravamo più emozionati che stanchi per la lunga marcia. Tornavamo nella capitale della guerra, abbandonata poco più di un anno prima e occupata dagli austriaci che avevano rotto il fronte a Caporetto. Un anno lunghissimo, eterno, soprattutto per noi che a Udine eravamo nati. Quando entrai a Porta Venezia, dimenticai tutto. Stanchezza, fame, sacrifici, sofferenze. E anche se piangevo, le mie erano lacrime di gioia. E chi avrebbe potuto trattenerle, specialmente quando, diffusasi in un baleno la notizia del nostro arrivo, le uniche campane del Friuli, salvate dalle razzie nemiche, quelle della Basilica della Madonna delle Grazie, cominciarono a suonare. Suonavano a distesa. Momenti che non si dimenticano, tanto sono colmi di luce. Udine, ricordo, fu quel 3 novembre tutto un tripudio di evviva, mentre intorno, qua e là, risuonavano gli scoppi delle ultime fucilate degli austriaci che percorrevano le contrade periferiche della città. E le stesse acclamazioni all'Italia salutavano quel giorno l'ingresso dei bersaglieri a Trieste. Mentre a Trento, l'altra città carissima per la quale l'Italia era entrata in guerra, il tricolore veniva issato sul castello del Buon Consiglio e per le vie della città redenta sfilavano i gloriosi reparti alpini. Il giorno dopo, 4 novembre, allorché venne proclamato l'armistizio, le nostre armate avevano già raggiunto i termini sacri della patria, oltre gli ingiusti confini. I soldati d'Italia avevano vinto la guerra, ma con essi l'aveva vinta tutto il popolo, che con l'esercito era stato un blocco solo di fede, di passione e di sacrificio. Mai come allora, nella storia della patria, il fronte spirituale fu più compatto. Era stata dura la vita del combattente nelle trincee dallo Stelvio al mare e ricordo che nella relativa tranquillità delle retrovie i fanti adolescenti, forse anche per fugare il pensiero dell'imminente battaglia, accompagnavano con la chitarra questo canto d'amore pieno di appassionata invocazione. Veramente dura, che spesso si esaltava al successo di una posizione conquistata o di una vetta strappata al nemico, tanto da far sbocciare dal segreto pianto di un anonimo soldato del Terzo Alpini le ingenue e dolenti parole di Monte Nero su un motivo lento, accorato come un singhiozzo. Monte Nero, Montenero, traditor della patria mia, ho lasciato la casa mia per venirti a conquistare. E per venirti a conquistare abbiam perduto molti compagni, tutti giovani sui 20 anni. La lor vita non torna più. Erano quelli per il nostro esercito, tuttavia, i giorni dei successi, giorni che culminarono in quella battaglia dell'Isonzo che la notte dell'8 agosto 1916 fruttò alle armi italiane la presa di Gorizia, o meglio di Santa Gorizia, come la chiamò Vittorio Locchi, un giovane poeta toscano, il quale in un poemetto espresse il senso profondo e commovente di quel periodo angoscioso che va dalla vigilia dell'assalto alla città amata fino alla conquista. Fu quella della Sagra di Santa Gorizia l'espressione letteraria più alta di tutta la guerra 1915-18, ma il popolo, per conto suo, dette espressioni non meno poetiche ed intense. Fu creazione di un friulano, di cui non si conoscerà mai il nome, una villotta che in sintesi stupenda chiuse il desiderio che la guerra avesse fine e il soldato potesse tornare accanto alla propria sposa in attesa. Ai preat, la biele stele, duci sang dal paradis. Che il Signor fermi la guerra. E il mio ben torni in pais. Un legittimo sogno, frustrato però dall'incalzare degli eventi che portarono alla lunga e snervante guerra di trincea e costarono tanti, tantissimi morti che ora riposano nei cimiteri che la pietà e l'amore hanno eretto lungo l'arco alpino, dall'Adamello al Carso, sull'Ortigara e sul Monte Grappa, sul Pasubio e sul Montello, ad Asiago e a Udine, a Oslavia, a Timau e a Redipuglia. Quante spose, madri e sorelle vestirono in gramaglie. Fu come se un'ondata di sangue si fosse abbattuta sull'Italia, tanto da aver ispirato una canzone che fa esprimere ad una donna il desiderio di non vedere più le rose rosse che le ricordano troppi lutti ed orrori. Thank you. poi la tragedia, la ritirata di Caporetto e l'invasione del Friuli. Ma sul Piave si compì il miracolo. Esercito e popolo furono una volontà e un'anima sola, una sola decisione di resistenza e di vittoria. E l'Italia fu salva. Come non sono dimenticati i caduti di Vittorio Veneto, così rimangono vivi nel ricordo e nel suffragio di una preghiera quanti sono poi morti nei deserti d'Africa o nelle steppe russe, sui monti di Grecia e di Albania, nei tristi campi di prigionia, sotto i tremendi bombardamenti delle città e nelle opposte trincee d'Italia. Ad essi la nostra gratitudine perché sono caduti nella certezza di edificare un mondo migliore basato sulla giustizia, sulla libertà e sulla pacifica convivenza dei popoli. A ricordare questi sacri ideali, la voce dei nostri caduti, protagonisti del risorgimento d'Italia, si levi oggi solenne e ammonitrice. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 121esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pellizzari.